Storie italiane. Anansi e il vaso della saggezza. Molto tempo fa, quando l'umanità non aveva ancora scoperto il fuoco o inventato la ruota, in un piccolo villaggio dell'Africa viveva un angelo uomo chiamato Anansi. Anansi era il figlio del potente re del cielo, Nayame. Anansi era una persona molto curiosa e adorava imparare cose nuove. Suo padre se ne accorse e decise che era finalmente giunto il momento di regalargli il vaso della saggezza. Anansi, figlio mio, apprezzo la tua costante ricerca di conoscenza. Ho deciso di donarti questo vaso della saggezza. Wow! Questo vaso ti insegnerà molto nella vita. Ma ricorda, l'unica cosa da fare con la buona saggezza è condividerla. Anansi, ipnotizzato dal vaso, non lo sentì neanche. Grazie, padre. Terrò questo vaso al sicuro e imparerò bene. Col passare del tempo, Anansi imparò ogni giorno qualcosa di nuovo dal vaso della saggezza. Cercava di creare qualcosa di nuovo ogni giorno. Guarda cosa ho fatto, padre! Fantastico! Sono orgoglioso di te, figlio mio. Perché non condividi questa idea con gli abitanti del villaggio? Condividere questo strumento? Assolutamente no! Questa è la mia creazione e nessuno può usarla tranne me! Questo fece preoccupare Nayame, ma scelse di non dire nulla e lasciarlo al tempo. Dopo alcuni giorni, Anansi imparò come accendere un fuoco. Era emozionatissimo e mandò immediatamente un corvo a chiedere a suo padre di venire nella sua tenda. Quando Nayame arrivò, fu molto contento di vedere il fuoco. Padre, ho creato fuoco dentro la tenda! Non ho bisogno di vivere nell'oscurità e non ho bisogno di sentire freddo. Terrò il mio corpo pieno di luce e calore. Nayame sorrise con orgoglio. Non ho idea di che cosa hai raggiunto, figlio mio. Questa scoperta porterà l'umanità a un livello completamente diverso. Devi condividere questo con le persone immediatamente. Padre, sono il solo che fa sforzi per inventare e scoprire. Pensi che io voglia condividere la mia saggezza con i piri umani del villaggio che non fanno niente di niente per evolversi? Nayame fu stupito dalle parole di Anansi. Si rese conto che non poteva più tacere. Anansi, ero molto felice che il legittimo proprietario del vaso della saggezza fosse il mio caro figlio. Tuttavia, mi sono reso conto di aver fatto un errore. Per favore, restituisci il vaso. Cercherò qualcun altro che sia disposto a condividere la saggezza con il mondo. Questo fece arrabbiare Anansi. Si alzò immediatamente e disse: Padre, ho nascosto il vaso in un posto che non potrai mai trovare. È lontano dal nostro villaggio. Nayame ci pensò un po' e poi disse: Anansi, tu non meriti di vivere tra gli umani. Vattene subito e torna solo quando avrai capito il tuo errore. E per quanto riguarda il vaso, lo troverò prima o poi. Detto questo, Nayame scomparve nel nulla. Mio padre non capirà mai che gli umani non meritano il vaso. Mi assicurerò di nasconderlo da qualche parte, nel profondo del bosco dove nessuno lo troverà mai. Anansi prese il vaso dal nascondiglio e lasciò la casa. Mi merito questo vaso della saggezza. Ormai non si può più tornare indietro. Anansi andò lontano nel cuore della foresta. Cercò in lungo e in largo il posto giusto per nascondere il vaso, ma non lo trovò da nessuna parte e presto fu molto stanco e assetato. Oh, ho così sete. Dove posso trovare dell'acqua? Quello è un fiume? Sì, acqua dolce e fresca. Ecco io. La riva del fiume era ripida e scivolosa e Anansi si sentì impotente. Temeva che il vaso della saggezza sarebbe caduto dalle sue mani rompendosi. Oh, come ci arrivo? È molto difficile. Proprio in quel momento Anansi sentì un rumore nell'acqua. Guardò di lato e vide un bambino che lo guardava e sorrideva. Il bambino stava tirando una vite legata ad una pentola fatta di foglie, prendendo acqua dal fiume. Lentamente estrasse la pentola piena d'acqua dal fiume e la diede ad Anansi. Anansi fu felice e beve l'acqua in un secondo, perché aveva molta sete. Grazie, amico. Cucù. Anansi inclinò la testa all'indietro. Interessante. Bene, grazie ancora. Devo andare adesso. Cucù. Non importa. Anansi si girò e iniziò a camminare. Dopo un po' si rese conto che il bambino lo stava seguendo. Ad Anansi non piaceva affatto. Ehi, perché mi stai seguendo? Cucù. No, ne ho nessun gogo. Devi tornare alla tua tribù. Cucù. Anansi sospirò e continuò a camminare. Il bambino continuava a seguirlo. Sembri un piccolo umano complesso. Continuarono a camminare finché non videro un enorme albero. L'albero aveva numerosi rami sparsi in tutte le direzioni. Era così contorto che sembrava il posto perfetto per nascondere il vaso della saggezza. Sembra il posto perfetto per nascondere il mio prezioso vaso. Anansi decise di scalarlo. Prese il vaso con una mano e cercò di arrampicarsi con l'altra, ma continuava a scivolare giù e aveva paura di lasciar cadere il vaso. Il ragazzino, tuttavia, era molto divertito. Cucù! Cosa c'è? Anansi si voltò e vide il ragazzino tenere una vite proprio accanto all'albero. La lanciò verso il vaso e fece un nodo. Cucù! Anansi ne fu impressionato. Ah, questo potrebbe davvero funzionare. Andò all'albero, strappò la vite e fece esattamente come gli aveva suggerito. Quindi iniziò la sua scalata mentre il ragazzino guardava. Anansi si arrampicò in alto sul ramo fino alla parte più alta dell'albero. Oh, finalmente! Il posto migliore per nascondere il vaso della saggezza. Nessuno lo troverà mai. Persino quel piccolo umano non può vederlo. Anansi guardò in basso e da lì vide che il ragazzino stava costruendo montagne di sabbia e scavando attorno ad esse per fare un fiume. Anansi continuò ad osservare il ragazzo. Si rese conto che durante il suo difficile viaggio non era stato il vaso ad aiutarlo, ma il bambino. Si vergognò di quanto fosse stato sciocco. Se questo piccolo umano è così intelligente anche senza il vaso della saggezza, mi chiedo cosa possa essere in grado di fare l'intera razza umana. Loro hanno solo bisogno di ispirazione, della saggezza da condividere. Anansi guardò il vaso e alla fine prese la sua decisione. L'unica cosa da fare con la buona saggezza è trasmetterla. Sì, è quello che aveva detto mio padre. Anansi scese dall'albero e lanciò il vaso nel fiume. La forte corrente del fiume lo ruppe e tutta la saggezza si disperse fuori, andando verso il villaggio. Il ragazzino era confuso. Cucù? Sì, lo so. Ora ti riporto a casa. E così Anansi, l'uomo angelo, era finalmente pronto a diventare il maestro dell'umanità. Insegnò loro come accendere un fuoco, fare una ruota e anche i vari metodi di coltivazione. Aiutò tutti, raccontò storie ai bambini piccoli. Nel frattempo, la conoscenza e la saggezza disperse nell'acqua del vaso della saggezza si diffusero in tutto il mondo tra le persone, rendendole più sagge, intellettuali e preparandole a diventare la specie più potente sulla Terra. Grazie ad Anansi, la saggezza viaggia lontano e ben oltre, insegnando a persone diverse cose diverse. Per questo motivo, non una sola persona possiede tutta la saggezza del mondo. Ed è per questo che condividiamo la saggezza gli uni con gli altri quando scambiamo idee. Se tutti avessero tutta la saggezza, o se tutta la saggezza fosse stata tenuta nelle mani di una sola persona, il mondo non sarebbe mai cresciuto. Proprio come una candela non perde nulla accendendone un'altra, la conoscenza aumenta condividendola, non preservandola. Cucù?